Ed eccoci qua, che puntuali proprio come lo sciacquone, perché alle 18 ormai siamo diventati assolutamente svizzeri nelle nostre routine, nelle nostre abitudini gastricamente maleducate, e ci ritroviamo ancora una volta qui ad OGM, oltranzisti, gastricamente maleducati. Con me c'è il padrone di casa, Simone Pizzi. Buonasera, buonasera, buonasera. Con me c'è in collegamento dalle Puglie il nostro consulente scientifico Carmine Puccio Console. Sì, le Puglie, plurale, ce ne abbiamo 3, 4, 5. E poi dalla ridente Emilia, il nostro consulente psicopatico, il nostro lobster frontale, perché lo sai che lui lo mischio sempre, il nostro, possiamo dire, Francesco ormai, vero? No, sta morendo, morto, Francesco, morto, allora. Bene, mentre il povero Francesco muore in diretta, io vi lascio un attimo con un messaggio di servizio da parte di Runtime, perché vi dobbiamo raccontare quello che succederà nelle prossime settimane. Quindi un momentino per noi e poi dopo torniamo insieme. Cari amici di Runtime, come abbiamo ripetuto moltissime volte, questa fase della nostra vita è segnata dalla più grande crisi dal dopoguerra ad oggi. Sicuramente una così forte limitazione delle nostre libertà personali non ha precedenti nell'era repubblicana, ma è una sorta di patto sociale. Abbiamo deciso di accettare le indicazioni per la nostra sicurezza. Questa fase ha creato problemi, difficoltà, ma soprattutto distanziamento sociale fra le persone, i familiari e gli affetti importanti. Però ognuno in questo periodo si è preso un impegno, ha proposto cose, ha fatto musica, ha invitato la gente a cantare e a gridare che ce la faremo. Il nostro impegno è stato svolto con i mezzi che abbiamo, le cose che facciamo e che sappiamo fare da ormai un decennio: il podcast e la web radio. Il periodo di costanti live giornaliere è stato il nostro contributo, il gesto d'aiuto che potevamo offrire, e lo abbiamo fatto per voi e per noi stessi, creando uno dei momenti più magici di tutta la nostra storia di podcaster e pirati della radio. Ora questa fase è finita. Non importa se siamo d'accordo o meno, se siamo preoccupati o no. Importa essere concentrati nel riprendere la nostra vita, i nostri impegni più prioritari, e cercare di farlo senza ammalarci. Pertanto Runtime, da lunedì 4 maggio, cessa il suo impegno di almeno una live al giorno. Ma questo non significa che è finito tutto, che non continueremo a fare podcast o live, anzi. Semplicemente dobbiamo abbassare un po' il nostro impegno, per dare spazio anche alle cose che per stare con Runtime abbiamo trascurato. Lasciate che vi dica una cosa. Tutti noi, dal primo all'ultimo arrivato, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E vogliamo ringraziarvi tutti, nella chat, nelle live, coloro che sono intervenuti in voce, quelli che hanno scaricato gli episodi e tutti coloro che hanno restituito anche e soltanto con la presenza. Ci avete fatto sentire importanti e utili, e tutto questo merita un grazie, perché se esiste una magia nel fare questa piccola radio pirata, beh, ovviamente è merito vostro. Con affetto, lo staff di Runtime. E quindi, ragazzi, insomma, avete capito, il messaggio che vogliamo, che abbiamo voluto lanciare, non deve essere frainteso. Non è che da oggi non ci siamo più, e infatti, Simone, dove siamo? Siamo qui, però dalla prossima settimana si torna alle 21, perché sì, sennò poi con OGM cercheremo di riprendere la collocazione serale, insomma, che più ci confà. Poi cercheremo di capire anche se i nostri consulenti vorranno seguirci in questa avventura anche in altri orari, o se insomma dopo cena hanno delle altre attività da espletare. Insomma, io sì, in parte volta me lo auguro anche per loro, ecco. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, sì. Tra l'altro, no, vabbè, oggi è il 4, ragazzi. Non abbiamo dedicato la copertina, però insomma ce lo ricordiamo che oggi è il 4 di maggio, e quindi che la forza sia con voi. Sia con voi, esatto. E con il tuo spirito. Eccala, dai subito la marchetta religiosa. Tu la devi far finita sta cosa, eh? Non va mica bene. Ma ve l'ho detto che Dio non ci credo, ma a volte esiste. Tipo un'ora e mezza fa è esistito davvero, però sono cose private. Ma fammi capire, mignolino o spigolone? Cioè, mignolino sullo spigolone o ditone sullo spigolone? Ditone sul mignolino. Cioè si sono intrecciati? Ma dello stesso piede. Ho capito. Il Kama Sutra dell'alluce con l'illice, col pinchiolimpiolo, non mi ricordo mai come si chiama il mignolino del piede. Si chiama mignolino del piede. Certo. Solo l'alluce cambia nome. No, no. Se no c'è l'indice, il medio. Perché tu indichi, no? Allora, ti potrei stupire dicendoti che no, non è vero che cambia soltanto la luce con il col pollice, ma c'è l'illice, il trillice, il pondulo, il mellino e poi c'è il bufalo che in alcuni casi è se c'ha il sesto dito, insomma. Però ecco, il mellino è il quinto dito del piede. Ovviamente ho cercato su internet, C'è Roberto in chat che ci dice che oggi lui se n'è stato a casa. Intanto c'è Matteo Bigotto. Matteo Rigotto. Ciao Matteo, non ti vediamo tipo dalla prima stagione live. Ci ascoltava Matteo, me lo ricordo incredibile, bene. Incredibile, vi riesco a ribeccare live per una volta. Buongiorno e va bene. Ciao ragazzi. Noi in questo periodo siamo stati sempre live, quindi sono tornati dei grandi numeri. Roberto in chat dice che oggi lui se ne è stato a casa, giustamente. Però già a Torino già ci sono stati i primi incidenti. Cioè, nel senso, la gente è uscita di casa e tutti sbatte uno contro l'altro. E quindi saranno contente le assicurazioni, insomma, di questa cosa. Comunque, per rimettere un po' d'ordine, diciamo questo: che noi dalla prossima settimana oggi, cioè, ritorna quella che era la vecchia programmazione. E con questo non significa, appunto, come diceva Walter prima, che non ci saranno più live o che non faremo cose, semplicemente è l'impegno di fare almeno una live al giorno che verrà meno, perché giustamente ritorniamo alle priorità, quelle più importanti. E il nostro impegno... Il nostro impegno l'abbiamo dato, cioè, penso, insomma, che è stata un'esperienza bella che abbiamo visto tutti quanti insieme, ha avuto una sua magia anche, quindi questa cosa veramente noi vi ringraziamo. Le cose belle devono finire quando sono all'apice, si dice, no? Esatto, bravo, sennò poi dopo diventano gli... No, ma la cosa bella è che ci ha fatto crescere in tutti i sensi, perché siamo cresciuti nei numeri, nello staff, negli automatismi, anche nella qualità dei prodotti, in un certo senso, no? Malgrado la anche difficoltà. Anche nel peso, forse. Nel peso sicuramente, almeno... Tu se ti metti di profilo diventi bidimensionale, caro, cioè non fai testo, insomma, non puoi parlare di questo. Sono uno sprite. Esatto, sei uno sprite del Commodore 64. Noi altri magari qualche chiletto, però non indagheremo su questa cosa, ce lo siamo dato proprio come impegno sociale di non indagare. Però insomma, malgrado le difficoltà, perché ragazzi, noi è 2 mesi che facciamo podcast ognuno da casa sua, noi non ci vediamo in faccia da tantissimi mesi, anche se... Questo d'altronde sono gli lati positivi della pandemia, tutto sommato. Non è vero, io ti ho spacciato una mascherina è vero, io Michela, però sai che ormai penso un mesetto c'è passato, vuoto per pieno, Quindi insomma, cioè, Michela spaccia mascherine da quando? Da quando c'è il Covid. Il pusher di mascherine. Trump ancora che se la stappia con la Cina, in realtà il Covid l'ha inventato Michela e lo ha sparso nell'aria per vendere mascherine. E questo abbiamo le prove. Esatto. Le provole e le scamorze, sì, esatto. E le zizzone di battipaglia? Vorrei che fosse così, perché almeno mi sarei arricchita in questo Covid, ma non vorrei, perché comunque c'è tutti quei morti. Guarda Michela, non lo so, perché i primi che hanno provato a fare le sole con le mascherine l'hanno pizzicati entrambi. Uno era un furbetto del quartierino dei Latine, vabbè. L'altro era niente, l'altro è ancora in realtà è ancora da verificare, però la denuncia c'è e ha come protagonista Irene Pivetti, non so se l'avete letto settimana scorsa. Sì, l'ho letto, è vero. Quindi insomma, voglio dire, piove sempre sul bagnato, se potrebbe dire. Vabbè, ma in realtà ragazzi, lei posso provare un esperimento in diretta? Sì, posso provare un esperimento. Basta che non sia una Mentos nella Coca-Cola. No, sto cercando di cambiare un pannolino mentre facciamo la diretta, vai. Vabbè, guarda, è in pieno spirito OGM, fattelo proprio dire. Ma perché sta cosa, cioè, tipo... Tipo che sto da solo, perché mia moglie è uscita a fare il giro del palazzo con la bambina e lui se si caga nel momento in cui avverte che ha rilasciato, se non lo cambi dopo 10 secondi comincia a gridare, quindi... ma c'ha anche ragione, insomma. Sì. Nel frattempo Roberto in chat ci dice che per la Pivetti sapeva che mancava il bollino Inail. In realtà non sono andato avanti nelle letture, però ci sono stati dei problemi con, perché a quanto pare, cioè, quello che tu hai tradotto, perché io leggo scritto in sanscrito quello che ha scritto. Ma io l'ho studiato alle elementari, perché ho fatto le ho fatto le scuole in India e ho fatto le scuole arcaiche, esatto. Mancavi il bollio Inail, per me era, cioè, tipo il Protean praticamente. Che è una disciplina dei vampiri, Protean. Sì, esattamente. Però va bene. No, sono vampiri spaziali, mettiamola così. Nessuno l'ha ancora fatto questo crossover vampiri allo spazio. Sì, credo che se cerco su Amazon Prime Video qualche trasciata così la troviamo. Vampiri zombie che cagano nello spazio. Vampiri zombie che i giapponesi l'hanno fatto. Io una volta qualcuno mi suggerì, dice, guarda questo film giapponese. Insomma, c'era praticamente i zombie, la gente che moriva per le braccia nel culo, gente che esplodeva di merda, era bellissimo. I giapponesi hanno una mente, ragazzi, che non lo so. Beh, sono i re delle perversioni, ma perché poi alla fine, secondo me, vivono di repressione, perché loro sono socialmente repressi per cultura. Loro si devono reprimere da quando nascono a quando, come dire, a quando passano a miglior vita. E quindi poi ovviamente coltivano perversioni in maniera, come dire, a go go. Ma qual è la miglior vita? Ah, guarda, quella senza Covid, non lo so, no, non lo so, nel senso, io ultimamente, guarda, poi ecco, entriamo a bomba sull'argomento, così poi ognuno, magari anche, chiedo anche agli amici in chat, visto che possiamo avere a questo punto il feedback da tantissime regioni, cerchiamo un attimino di capire cosa è successo oggi, perché io oggi mi sono sentito investito di un'ondata di pessimismo, ma non perché abbia visto qualcosa che non mi aspettassi, però in qualche modo il primo impatto con una società nuovamente caotica dopo 2 mesi, oggi non è che ho fatto chissà che, però sono dovuto andare allo studio del medico di base per delle prescrizioni, e siccome adesso il medico di base non ti fa fare anticamera, devi aspettare fuori fino a quando non è il tuo turno, sostanzialmente sono stato sulla strada a vedere quello che succedeva e ho visto il via vai di preemergenza, fondamentalmente non molto di meno, ecco. E questa cosa lì per lì mi ha un po', come dire, messo una sensazione di pessimismo, forse perché non ero più abituato, nella mia testa mi sono subito detto, ecco, là, 2 settimane e azzeriamo i successi sanitari di 2 mesi. Io ovviamente spero di sbagliarmi, però è vero che quando fai ripartire un paese per il primo presupposto, che è quello di far ripartire il mondo del lavoro, ma senza poi aver fatto nulla, perché di fatto, e questo lo diceva anche Walter Vannini nel podcast, che guarda caso sarà stato un caso che ascoltavo il podcast di Vannini mentre aspettavo il medico, però fatto sta che lui ha detto chiaramente, insomma, di fatto non si è fatto nulla, quindi non ci sono stati in questi 2 mesi delle contromisure serie a impedire che una volta che si riaprisse si tornasse capo e 12. Abbiamo riaperto, abbiamo detto che negli autobus devono salire il 50% delle persone, abbiamo detto che si deve fare la fila a 1 metro di distanza uno dall'altro, però poi abbiamo sostanzialmente messo, come dire, una concausa alla deriva, nel senso che abbiamo detto, ok, da oggi devi andare a lavorare, cavoli tuoi come, devi rispettare le indicazioni che i mezzi di trasporto pubblici hanno organizzato per la tua sicurezza, poi è un problema tuo se ci metti un'ora e mezza ad andare al lavoro, viceversa il lavoratore al lavoro ci deve andare, quindi ecco che una volta che sei salito sul vagone della metropolitana, 1 metro diventano 50 centimetri, 50 centimetri diventano 20 e muoia Sansone e tutti i filistei, insomma, e mi pare di capire che un po' in tutte le regioni la sensazione è che qualcosa non sia andato proprio a regola d'arte con i mezzi di trasporto ci sia stata. Voi che dite? Con i mezzi di trasporto era inevitabile, con tutto il resto parliamone, nel senso che comunque luoghi di aggregazione che restano chiusi, gli uffici, stavo facendo un rapido sondaggio tra i miei conoscenti che non lavorano in Puglia, molti stanno continuando a lavorare da casa, qualcuno che è dovuto andare in ufficio da oggi mi stava dicendo che comunque nella maggior parte hanno distanziato le scrivanie, fanno le pulizie in pausa pranzo tra un turno e l'altro per chi fa i turni, quindi non sarà abbastanza, ma non è zero, mettiamola così. No, non è zero, però effettivamente, voglio dire, noi siamo un paio, ma in realtà non so quanto poi all'estero possano aver fatto di meglio, perché secondo me c'è proprio strutturalmente un'impossibilità a gestire dei sistemi che sono basati su un'affluenza enorme. Cioè, stare accalcati in metropolitana è una condizione sine qua non. Non c'è una soluzione, secondo me. E quando una città grande come Roma ridà il là a 4, 5, 600 mila lavoratori che ogni giorno affollano le metropolitane per andare al lavoro, anche perché poi i turni sono quelli, non è che li hanno scaglionati più di tanto, non è che hanno trasformato due turni al giorno in sei turni al giorno per scaglionare gli accessi alle metropolitane e al luogo di lavoro. Insomma, qualcuno magari l'avrà anche fatto, ma la maggior parte c'ho i miei dubbi. Poi non so come è andata in altre città, però da quello che leggo anche tra i commenti nelle chat, insomma, anche di Torino e di Milano non si parlava come, diciamo, una situazione esattamente tranquilla. Ma guarda, io devo proprio esprimere la mia considerazione, non è, devo dire, non mi sto uccidendo di informazione su questa cosa qui, e vabbè, so, due giorni magari, quando tu linkavi le cose relative ai mezzi pubblici un po' mi le leggevo, un po' cercavo di andare a spizzare, cercavo anche di farmi un'idea. Secondo me veramente il vero problema non è questo, secondo me un minimo diciamo di attenzione, di indicazioni a livello protocollare, diciamo, sono state date. Secondo me la cosa è proprio più generale, cioè nel senso il governo che dice che non c'è affidamento alla responsabilità della gente, cioè sul senso e quando, non, e quando non sai cosa fare, questo, no? Deleghi, cioè. questo mi sembra veramente un limite, nel senso, boh, Francesco. Allora, sicuramente saremmo potuti andare peggio, ma anche meglio, credo. Io vi dico, qua a Reggio non so tanto seguendo, però mi hanno detto qui in casa, uno si è andato a far passeggiare in parco e dice che la gente c'era al parco e neanche poca. Quindi, secondo me, cioè, ritorniamo al fatto dei congiunti, chi si può vedere e chi non si può vedere. Ha generato un caos generale sull'interpretazione e il tentativo di mettere pezze su pezze ha sicuramente peggiorato. Mi state sentendo? Sì. Ah, okay. Sta un momento di vuoto. Di vuoto. È l'ictus. Pure tu. Io non so davvero. No, sì. Sì, fare affidamento. Cioè, qui la manovra o poteva essere fatta in un verso o nell'altro. O totalmente autoritario, in cui dicevi alla gente anche quanti respiri devono fare, quante volte devono respirare al giorno. Oppure, più che delegare, davvero responsabilizzare in modo, come diceva tra l'altro anche Vannini, cioè di non trattarli come dei deficienti che devono fare le cosine, cioè dare delle indicazioni più precise, responsabilizzare di più, dare delle informazioni più adeguate, cioè trattarli con rispetto. Poi giustamente qui siamo tutti dei pessimisti, abbiamo una pessima opinione degli italiani, dell'Italia in generale, più o meno, credo, non so se mi sto sopportando la bandiera inutilmente di tutti voi, non so quanto vi riconoscete in quello che ho detto. Beh, io ho una pessima opinione anche di me stesso, quindi figurati. No, vabbè, questa vuol dire che è un'ottima autoconsapevolezza. Ah, voglia. Lo dico spesso alle persone, madonna, mi sento una merda oggi. Dico, ma che cos'è tutto questo oggi, brilli di autoconsapevolezza? Non lo so, intanto ci sono gli Ewoks sotto. No, ma io infatti volevo fare una domanda a Carmine. No, Carmine, sono due mesi che facciamo queste dirette, ma ancora non l'hai cucinata sta cena? Io assolutamente. Che cavolo, no, ma sta aspettando che cresca un po' di più, sennò cacchio si mangia, ci campo. Io non so perché c'ho questa immagine di Puccio Callatta, cioè, non lo so. Tipo Robert De Niro con la tetta finta, no? No, questa immagine è bruttissima, spero che tutti quanti la rimuoviate dalla mente. Senza farmaci. Però posso fare un'osservazione, cioè se io oggi che ci sarebbe stato casino in giro me l'aspettavo, ma più che altro perché il primo giorno dopo due mesi in cui hai detto alle persone non uscite di casa, oggi gli hai dato uno spiraglio secondo me è anche il fatto che banalmente si volevano pigliare la boccata d'aria. No, bisogna vedere. Vediamo se... nei prossimi giorni. Dice... Sì, esatto. Guarda, da una parte ci può anche stare. Però io, per esempio, vedo, come diciamo con Michela, per esempio, quello che hanno fatto a Tenerife. A Tenerife, con l'esercito per strade, hanno detto dalle 5 alle 6. Dalle 6 alle 10 di mattina. Ok, quindi dalle 6 di mattina alle 10 di mattina, dice, potete fare una passeggiata. Poi... controllati. Da comunque guardie preposte ad ogni parco. Vabbè, quello purtroppo da noi è un po' meno fattibile come tipo di discorso. Però diciamo in generale, no? Nel senso, tu devi dare delle indicazioni, e devono essere delle indicazioni stringenti. Io posso capire che per esigenze economiche generali, perché tutti i giornali non fanno che ricordarci che il PIL è almeno il 20%, e oddio che catastrofe finanziaria. Ma diciamo che è una cosa che la sapevamo, però il fatto che tu lo ricordi ogni giorno è perché comunque induci la gente a pensare che questa situazione forse è meglio tornare a lavorare, è meglio tornare a produrre denaro piuttosto che i nostri genitori. La induce ad avere una scaletta delle priorità sbagliata, fondamentalmente. Esatto. Allora, perché sì, la scaletta delle priorità ci sta, però c'è anche da dire che se ci fosse stato un sistema di supporto valido, probabilmente questo ritorno a scaglioni ci sarebbe potuto essere, cioè, perché tu non è che a un certo punto dici vabbè riaprite tutti, vabbè riaprite quasi tutti, giusto quelli che proprio sulla sulla riapertura è chiaro come deve funzionare. Il problema è il resto, è dire gli affetti stretti puoi andare a trovare, puoi andare, perché per esempio noi sappiamo, no, che già ci sono delle persone che si stanno muovendo in questo senso, e si stanno muovendo nel modo sbagliato. Però chi lo definisce che è il modo sbagliato? Lo definisce un'interpretazione, e non deve essere un'interpretazione, cioè deve essere uno schema secondo il quale tu mi dici puoi iniziare quasi quasi a fare questa cosa qui, ma a queste condizioni qui, e non ci so cazzi, perché se io ti trovo che tu lo stai facendo in quest'altro modo ti inculo con la sabbia. E questo è il discorso, cioè se no tutto il resto è fuffa. E tu di speriamo nel buon senso di responsabilità civico della gente. Oggi il ministro della sanità per radio diceva però io sono veramente molto preoccupato. E allora che cazzo lo state a fa sto discorso? Non lo fate. Qui il problema è, come per esempio entra molto a gamba tesa giustamente Roberto Tomaiolo, che dice: ragazzi, non credo che abbiate idea di quanti posti di lavoro salteranno. Avremo il 20% di disoccupazione, molti di quelli che conosco stanno andando con i libri in tribunale. Ma nessuno lo sta negando, perché purtroppo è così. Ma purtroppo, altrettanto purtroppo, se si può dire così, non c'erano alternative. Questa è la cosa amarissima. Non c'era una gestione o diciamo un utilizzo di misure di sicurezza che l'avrebbe potuto impedire. In nessuna visione delle cose, in nessuno stato, ma neanche in quelli più organizzati e più ligi a certi doveri dei nostri, non ci saranno ripercussioni. Poi ovviamente l'Italia di per sé paga 20-30 anni di malgestione, malgoverno, malapolitica e malaffare. È chiaro che il virus è arrivato in un momento in cui la Repubblica Italiana era al suo apice negativo in quanto organizzazione, in quanto a fatiscenza delle infrastrutture, burocrazia e così via. Quindi purtroppo, col tutto l'amaro in bocca, non posso dire che non c'era modo di evitarlo senza preavviso. Io ti ho detto, dal punto di vista economico lo posso capire, dal punto di vista sociale secondo me quello che è stato fatto è approssimativo, e di fronte alle situazioni approssimative la gente si comportava in maniera approssimativa prima, quando c'erano le regole. E l'abbiamo visto, cioè nel senso, abbiamo visto anche botte dei 12.000-13.000 denunce al giorno. Figurati adesso, quando tu dici sì, puoi andare a trovare il tuo amico, che però deve essere proprio un amico vero, oppure devi essere. Vabbè, quella poi è stata smentita, in realtà gli amici non se possono andare a trovare, anzi, a uso e consumo di tutti, ridiciamolo, si possono andare a trovare i parenti e i parenti fino al sesto grado, il che significa che nel paesino di provincia puoi andare a trovare tutti. tutti quanti. Esatto. Qua a Pignano posso andare a chiunque. Mio figlio è andato a trovare per la prima volta sua cugina, e la vedrà dal balcone praticamente, però almeno sì, io capisco, per esempio, no? Cioè, capisco perché per i ragazzi deve essere stato 3 volte tanto più difficile che per noi, però già c'è già Matteo, è già tutto oggi che sta in giro praticamente. E guarda, ti posso dire che non lo so, nel senso che le nuove generazioni sono più avvezze al, diciamo, a un distanziamento sociale implicito, il famoso discorso degli hikikomori che facevamo. In realtà no, ti assicuro che per Matteo no, vabbè, non sto facendo il caso specifico, quelli che conosciamo è stato, è normale che è così, ragazzi. Cioè, mo, al di là che noi ci abbiamo questa immagine di questi che stanno sempre appiccicati ai cellulari, in realtà i ragazzi comunque socializzano sempre tanto, stanno in giro, stanno nella piazzetta, stanno dietro al borgo, stanno al Pincetto, stanno, insomma, quindi alla fine per loro, indipendentemente da tutto, è forse un trauma, diciamo, più che, grosso. Che però, non hanno fatto altro che andare, cioè, nel senso, non è che sono andati in giro chissà che, sono andati a casa dei genitori di Francesca, perché Francesca in questi 2 mesi non l'ha visti per niente, e poi sono andati, sì, a trovare la nipotina. Sì, la sì, però poi la sensazione è che poi dopo ti sfugge di mano sta cosa, capito? Eh sì, infatti poi io ho detto vabbè, però poi basta. Dice sì, boh, sì, vediamo. Sì. Poi ragazzi, io purtroppo, scusate, devo ammettere. Scusa Walter, posso fare una comunicazione? Certo. Noi abbiamo abbiamo una persona in quarantena nel palazzo. Attenzione. Sì, in isolamento preventivo. Fiduciario. Attenzione. Fiduciario. Va bene, insomma, quindi potremmo morire tutti. Io volevo dire questo, io non ho un rapporto particolarmente intenso con i miei parenti, quindi fondamentalmente per me paradossalmente gli affetti sono gli amici e non i parenti, quindi fondamentalmente a me non è cambiato niente, non andrò a trovare nessuno o quasi, anche se adesso posso farlo, perché quelli che vorrei andare a trovare non li posso andare a trovare, poi discorso a parte per la fidanzata che sta in un'altra regione, quindi quello a maggior ragione, però ecco, diciamo che tra tante misure forse Luca, questa c'è paura, eh? Ma sì, ha voglia, che scherzi. poi ne parliamo di De Luca, perché ieri è stato spettacolare. I miei fratacchioni. Guarda, dopo facciamo una piccola pausa e magari rientro, ne parliamo. Devo ammettere che io non ho ancora potuto vedere, io non me la sono sentita. Io Fazio non ce la faccio a tollerarlo, lo ammetto, e quindi non l'ho visto in diretta, però a questo punto dovrò recuperarlo. Oggi è stata una giornata che non me l'ha permesso. Volevo continuare a leggere un pochino i ragionamenti che faceva Roberto Tomaiolo, che non sono sbagliati, sì, perché però sì, no, secondo me si sta un po' allora, io considero Roberto una persona estremamente analitica e intelligente, si sta un po' avventurando, diciamo, in un discorso che trova alla snocciolare numeri che sono comunque basati su un'approssimazione, perché comunque oggi io vi dico che fino a che non passeranno lunghi tempi, come diciamo con Francesco, non avremo mai realmente i dati precisi di quello che sta succedendo, quindi che il 41% dei morti sta negli ospizi e il 19% dei contagi negli ospedali. No, ragazzi, guarda, anzi 10%, insomma. Comunque alla giornata odierna siamo comunque intorno ai 1200 positivi in più, quindi una media abbastanza buona, insomma. Però tutti in Lombardia. Però continuano ad tornano ad aumentare i positivi in Lombardia, e secondo me se non spengono la Lombardia sarà difficile ripartire veramente. Sì, però, la Lombardia vediamo. Purtroppo ha una, come dire, ha un'incidenza, una meccanica assolutamente diversa dal resto della nazione, perché vabbè, c'è una dinamicità diversa, probabilmente ci sono più ceppi che non sono stati del tutto identificati, isolati, tutto quello che vi pare, ed evidentemente la Lombardia non si è mai fermata, perché altrimenti come dire, non si spiegherebbe questa enorme mole di contagi tuttora. Il virus continua a viaggiare in Lombardia, come evidentemente sì, non si è ancora capito. Ma sì, infatti pure lì c'è un po' una questione. Comunque lui dice no, che comunque il problema è anche a livello costituzionale, no? Le limitazioni, e Conte è diventato il re. Allora ragazzi, io questo l'abbiamo detto tante volte, io non la riesco a condire questa interpretazione, non sono un simpatizzante di Conte, però credo che sia stato poi magari possa avere, come dire, un briciolo anche lui di egocentrismo in certe manifestazioni, ed è anche un po' disorganizzato. Vabbè, ma lui non parla, cioè, secondo me, interpretando io, lui non parla di Conte in quanto Conte, in quanto figura, cioè nel senso, oggi in questa condizione impostate determinate limitazioni sulla libertà personale, e comunque il Presidente del Consiglio rappresenta un po' l'unico punto di riferimento. Da una parte È ovvio che sia così, cioè, vabbè, nel ci senso, ha messo la faccia, è un capo di Stato, esatto, in una certo condizione di crisi, purtroppo a mali estremi, estremi rimedi, cioè, in altre situazioni sarebbe stato uguale se non addirittura peggio. Noi purtroppo, cioè, ci dobbiamo possiamo ricordare che nel nostro ordinamento, vabbè, il Presidente della Repubblica, che è la prima carica dello Stato, comunque è una figura istituzionale con delle funzioni perimetrate, e il Presidente del Consiglio finisce per essere operativamente la prima carica dello Stato, quindi che ci abbia messo la faccia secondo me è anche una cosa in qualche modo positiva. E dico, hanno avuto tutto sommato questo governo ha avuto l'umiltà di comprendere i propri limiti e di farsi gestire poi con tutta una serie di eccezioni alla regola e di cose non proprio riuscitissime, però da uno staff variegato di professionisti si sono fatti consigliare e hanno evitato di fare quello che magari altri al posto loro avrebbero preferito, e dire qua comando io, tutto verrà deciso solo ed esclusivamente su base politica, perché a quel punto avremmo avuto probabilmente ancora più morti, perché non ci saremmo fermati con la rigidezza che invece questa malattia ha imposto, e probabilmente soprattutto al nord nord-est l'ecatombe sarebbe stata ancora peggio di quella che stiamo raccontando. Sì, ti ribadisco, secondo me lui non fa un ragionamento de merito, cioè non è una questione politica, è una questione complessiva, anche generale, su un fattore strettamente costituzionale, che di per sé io condivido, perché alla fine l'abbiamo detto all'inizio, dal dopoguerra a oggi, nell'era repubblicana, non c'è un precedente che porta l'Italia a una così stretta e impostata limitazione di libertà personali, tra l'altro con il tentativo di far passare degli strumenti di controllo sociale abbastanza importanti, cioè questo, ragazzi, non possiamo negarlo, no? Cioè oggi questo è una sorta di crocevia che ci può portare a ritornare a una vita normale o a avere una modifica e un'abitudine verso questo tipo di impostazione, che poi alla fine c'ha del pericoloso, oggettivamente è così. Cioè, c'è un problema, no? Nel senso, possiamo dire che non ci sia un problema. Puccio, spegni il microfono. Sta succedendo di tutto qui, sì, esatto. Scusate, ok, ho risolto. Quello che però dico, una guerra in corso, una rivoluzione. No, diciamo che è una riflessione che meriterebbe un'attenzione generale, diciamo così, una volta fare una puntata magari anche con Roberto stesso e con Walter Vannini, e mettersi lì e cercare un attimo di snocciolare i pro e i contro di una situazione come questa, che chiaramente a volte ci ho riflettuto anche io, cioè, e se poi questo dovesse diventare uno stato di cose, cioè, nel senso, ragazzi, è un po', come ti posso dire, ma lì sarà noi, lì sarà un po' tutti noi come società civile prendere le dovute contromisure ed impedire, diciamo, noi fino ad oggi non abbiamo accettato questa situazione in maniera serena, l'abbiamo tollerata di buon grado, perché sullo sfondo, sì, esatto, perché sullo sfondo c'era una situazione mai avvenuta nella storia, che sappiamo in coscienza che mai il nostro paese sarebbe stato in grado di affrontare in maniera, diciamo, molto migliore di così, per tutti i problemi infrastrutturali che il paese si porta sulle spalle da 30 anni. Non è che, ripeto, ci fosse stato qualunque altro politico, le differenze non sarebbero state sostanziali, però probabilmente con un governo non figlio del compromesso come quello che c'è adesso, certe imposizioni sarebbero state accettate ma sarebbero potute. Allora dipende da chi avremmo avuto da presidente del Consiglio. Con un governo Salvini le situazioni sarebbero state peggiori, cioè, ma con un governo Salvini ci sarebbero stati molti più morti, sicuramente non ci saremmo fermati, avrebbero usato Salvini continua a parlare di cose che fanno comodo a lui, continua a parlare di condoni, di sanatorie, e ovviamente però gli extracomunitari fuori dalle balle, cioè continua ovviamente ad avere una politica che è semplicemente, come dire, io la vedo sempre e comunque votata al malaffare, nel senso che lui in questi momenti deve continuare a cercare di agevolare quelle categorie di poteri forti non proprio trasparenti, che in qualche modo a cui in un modo o nell'altro, velato o meno, strizza l'occhio, no? Non lo so, Però diamolo il suggerimento, ascoltatevi le ultime puntate di Data Nightmare, perché secondo me in questo momento Walter Vannini è veramente la sentinella della democrazia in questo momento, e lui dice anche che se la situazione è questa, dice ok, vabbè, bene il patto sociale e tutto quanto, ma forse potrebbe anche esserci la possibilità che un giorno dovremmo scendere per strada a riprenderci la democrazia, e questo tutto sommato alla fine è uno spunto di riflessione che non dobbiamo sottovalutare, perché trascurare questo pensiero secondo me è sciocco. Vederlo invece come punto è così, assolutamente è così, è sciocco altrettanto. Insomma, secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Cioè, bisogna essere sempre la resistenza di qualche cosa. Essere poi consci. Io questo lo voglio domandare a tutti voi, poi magari andiamo un attimo in pausa. Però la domanda mi viene naturale: secondo voi quante persone sono in grado di comprendere che a un certo punto potrebbe arrivare, hanno il senso critico per capire che a un certo punto arriverà il momento di dover scendere in piazza a lottare per diritti fondamentali e non certo per le stupidate? Qui non stiamo parlando dell'app, qui stiamo parlando dei diritti fondamentali e della, come dire, della rivendicazione di qualcosa che troppe generazioni hanno dato per assodata e per scontata, perché c'è chi è morto per quelle prima di loro e queste cose sembrano essere diventate imprescindibili. In realtà imprescindibili non sono, e ce lo stanno dimostrando i fatti. Sì, no, sentiamo gli altri un attimo, esatto. Che cosa ne pensano. Ragazzi, il fine giustifica i mezzi? È la domanda di Domaiuolo. Vabbè, dottore, inizia tu, dai. Ma magari parlate qualcuno. Inizia la persona che, che ha forse un pensiero un po' meno articolato rispetto agli altri, però vabbè. Io dico che comunque queste sono state comunque le misure straordinarie, l'abbiamo detto, che possono essere l'anticamera di qualcosa di peggiore. Non lo terrei tanto per esclusione, però fin tanto che per adesso di limitazione, cioè solo una limitazione dal punto di vista degli spostamenti e non di pensiero, cioè se stiamo facendo OGM e parliamo di OGM, vuol dire che qualcosa di peggio ancora non c'è in atto, che non dico che è necessariamente un'anticamera, cioè questa limitazione della mobilità di un qualcosa di più autoritario, però comunque bisognerebbe comunque essere abbastanza con gli occhietti aperti, poiché buona parte della, alla fine io credo sempre che gli analfabeti funzionali, come li vogliamo chiamare, l'espressione media del social network medio che vediamo attualmente non è mai davvero la rappresentazione di tutte le persone, pure necessariamente della maggior parte delle persone. Quando vediamo tutte quelle stronzate scritte, tutti quei complottisti e controcomplottisti, gente che non ha capito un cazzo, è proprio perché loro, avendo questo mezzo, si esprimono e sono. È lo stesso discorso, è diventato una vetrina di chi vuole urlare cose. Se prima uno che urlava lo sentivi solo un paio di isolati, ora sto pazzo che urla lo senti anche a distanza di un click, a distanza di un qualsiasi, cioè ce l'abbiamo tutti noi, ce l'abbiamo nei nostri contatti gente simile. Però se vai a vedere, magari su 10 persone una persona è, chiamiamolo, uno stronzo, non ha capito un cazzo. Chi è che andrà a scriverle e urlare? Ci stanno rubando tutto, ci stanno la limitazione, faccio quello che voglio. Sicuramente sarà quello che farà più rumore, che paradossalmente scriverà anche con, visto che ormai sono quasi tutti loro, paradossalmente è quello che scriverà anche con il linguaggio più adatto ad essere facilmente recepito e digeribile. Che una persona che invece un pochino più, che ha un po' più di raziocinio, o non scrive proprio, o comunque farà degli interventi che non saranno mediamente comprensibili, fruibili dalla gente. Quindi io dico che comunque se ci sarà da battere per la libertà, io non dico voglio essere ottimista, ma i mezzi, cioè potremmo anche usare gli stessi mezzi che si utilizza per fare propaganda brutta, e diciamo brutta, diciamo tutti quanti brutta, credo che lo stesso brutto anche. Cioè non ci dimentichiamo, per quanto io sia comunque anche se ho partecipato, non è che ero non è che mi consideravo una sardina io, però comunque ho fatto piacere che si è verificato un fenomeno simile, certo, per certo. Quanto con dei dati comunque discutibili a volte, però che comunque che ci sia creato una cosa simile in Italia, in cui sembrava impensabile in quel contesto poter vedere tanta gente manifestare, a volte gli stronzi lì in mezzo pure c'erano, però che si sia potuta creare, diciamo, una controcosa, non so che dire al posto di cosa, che una controbestia. Una controbestia, che a modo suo è comunque una bestia. È il risultato che qualcosa comunque si può fare, cioè si può usare comunque gli stessi mezzi anche per contro la bestia, diciamo. E dopo aver parlato male per tutto questo tempo, non so cos'altro dire. Carmine, tu invece? Io ho un'idea un po' diversa. Io di solito sono quello che guarda il lato pratico delle cose. Secondo me la questione lockdown non è mai stata combattiamo il virus, arriviamo a R0 e torniamo tutti a lavorare. È stata cerchiamo di avere quanti meno danni collaterali possibili prima di riportare la società a un livello gestibile, sia da un punto di vista economico, sia, scusate il termine, sia su quello del controllo della folla, cioè quanto possiamo tirare la corda prima che le persone esplodano, perché non siamo in Cina, non ci abbiamo i militari per le strade. Il problema è sempre stato quello di ci gestiamo la cosa fino a quando gli ospedali reggono e facciamo in modo che possano reggere su un periodo medio-lungo. Intanto dobbiamo pensare che prima o poi un po' di misure le allenteremo, perché se la gente non lavora, non produce, non prende lo stipendio, non consuma, il ciclo economico si blocca. Quindi penso che siamo arrivati al punto in cui chi doveva si è fatto due conti e ha detto siamo sul limite, da questo momento cominciamo ad allentare le maglie del lockdown, che Dio ce la mandi buona. Ma a prescindere dal fatto che abbiamo questo governo, questo presidente del consiglio, potevamo avere qualsiasi altro, la situazione sarebbe rimasta invariata e secondo me le decisioni lievemente diverse in un caso o nell'altro. Io sto guardando un po' quello che succede in altri paesi, c'ho amici, parenti in Carmine? C'è qualcosa? Stanno tagliato, Carmine. Ti stanno a venire a prendere. Aspetta, Carmine. Carmine. C'è qualche problema di distorsione. Diciamo che stavi parlando di parenti all'estero? Parenti all'estero in Francia e amici in Germania. Parlando con loro di ma da voi come va? Anche loro si lamentano delle decisioni che hanno preso il loro governo. E niente, c'è qualche problema tecnico per Puccio. Sì, secondo me la Digos lo ha beccato. Vabbè, Digos lo sdocumento. Prima o poi doveva succedere, va bene. Documento no, Yoda. Esattamente. Non c'ho mai l'asset apposito quando voglio farlo, mannaggia, vabbè. Sentite, allora, io approfitterei per fare una piccola pausa e per lanciare il brano di questa settimana, perché certe iniziative ovviamente non si fermano e una di queste è proprio farvi ascoltare dei brani di band emergenti. Io chiederei al nostro fratacchione di lanciare il brano in maniera tale che poi quando ritorniamo in live vediamo di recuperare anche il povero Puccio. Fratacchione che ha non tanto il fatto che ha tanti congiunti, ma la congiuntivite, quindi allergica davvero. Allora, il brano di questa allora, da quello che abbiamo inaugurato circa 3 settimane fa di far girare un brano di una band emergente, così un pochino, innanzitutto sono selezionati perché se mettiamo questa musica vuol dire che ci piace. E questa settimana è toccato ai Benzabroi, che è un gruppo punk rock reggiano che è nato circa 2 anni fa, nel 2018, che nonostante il lockdown, nonostante diciamo esista solo da pochi anni, praticamente ha già quasi pronto materiale per due album per due lockdown, quindi si sono preparati in anticipo praticamente. E il brano che presentiamo si chiama Generazione Erasmus. È un brano piuttosto ironico, che però è una forte critica, diciamo, alle generazioni attuali, diciamo, in quelle in cui si la loro in primis, dicono, quelle dei 25-30 anni, in cui comunque vengono additati di essere comunque generazione Giusi, generazione Bataclan, generazione Facebook, eccetera. Loro vogliono esprimere che questo non ci rappresenta affatto, anzi vorremmo dimostrare che in realtà siamo ben altro, anzi che siamo Ben Affleck. Io direi di far partire questo brano. Chi è alla regia? Vada. bello il panchettone, c'è. Viviamo nel bel paese, senza opportunità, ma potremo far carriera con mi piace su Instagram. L'industria al collasso, l'evasione alle stelle, e a noi ci frega un cazzo, solo di attore modelle. L'Europa è un inganno, di interessi finanziari, occupati da 70 anni dagli americani. Ma quale libertà? Vogliamo il nuovo iPhone, e la realtà fa schifo, meglio cacciare i Pokémon. Ma noi siamo ragazzi seri, pensiamo al calcio e alla figa, anche stanotte zero problemi, un altro cocktail e un'altra riga. Generazione Erasmus, generazione Bataclan, generazione Facebook, come ci definiranno? Generazione selfie, quelli del Jobs Act, generazione Chiusi, generazione Millennials. Paese senza creatività, nel pattume culturale, nella pubblicità, creati con lo stampo come tanti manichini, con lo spritz in mano, barba lunga e risvoltini. In precariato fisso o in disoccupazione, basta non perdersi il sabato a Riccione. Mangiamo merda tanto, venerdì arriverà, e se ci incazziamo rispondiamo con hashtag. Ma noi siamo ragazzi seri, pensiamo al calcio e alla figa, anche stanotte zero problemi, un altro cocktail e un'altra riga. Generazione Erasmus, generazione Bataclan, generazione Facebook, come ci definiranno? Generazione selfie, quelli del Jobs Act, generazione persa, generazione svegliate. E si rientra. Io personalmente sto riflettendo sul concetto di Chiusi, che è quella parola che mi richiama subito alla mente la Fornero e mi fa salire proprio, come dire, la carogna. Non so voi che ne pensate del concetto di generazione Chiusi. Lo so, però io a me mi ha fatto proprio indifferente. Il punk è la mia musica preferita. Rock, punk rock. E la definizione di Chiusi, guarda, è stata talmente tanto triste quella accezione che io non l'ho accolta mai e non l'ho sentita mai mia, anche perché devo dire che sono stata tutto tranne che Chiusi, anche se non mi è mai mancato niente, per carità, però comunque le maniche mi sono sapute rimboccare, e ho insegnato a mio figlio che comunque è meglio lavorare a 16 anni che sta buttati davanti al televisore. Intanto Margon ci manda i meme, perché voi sapete che Leo è un appassionato di meme, cioè penso forse anche una pagina proprio fatta sui meme. È un meme maker. Vi dobbiamo consigliare un libro molto bello che si chiama Memecrazia, che è un'analisi sociologica di come l'utilizzo dei meme abbia influenzato elezioni in mezzo mondo. Purtroppo, devo dire, perché come tante cose, tipo che ne so, i graffiti sui muri, no? Che alla fine invece poi alla fine diventa una forma d'arte. Anche il meme ha la sua ispirazione, però purtroppo poi ha preso una piega, è stato utilizzato malamente. Tipo, si è un po' inflazionato il meme, diciamolo. La foto dei Pacciani con la scritta Eugenio 79 euro, anni e guadagna 300 euro, Abdul immigrato clandestino e Renzi gli dà 3.000 euro al mese, cose del genere. Insomma. Vabbè, ma quelle sono fatte apposta per far capire poi come la gente è boccolona e non approfondisce mai quello che legge. Insomma, il danno creato da sta roba è incalcolabile. Ma secondo me, in quel caso, il meme evidenzia un problema culturale, è una cattiva tornasole. Esatto, perché ti fa vedere che c'è gente che capisce cazzo. Charles, no, che ci rubava le pensioni di invalidità. Ah, boh, quella mitica è sempre Abdul Akbar, come si chiama? chiama là? La Ruspal Bar. La Ruspal Bar. La Ruspal Bar, sì, sì, quella di Salvini, bellissima. Senti, ragazzi, ma rivenendo a noi, Fratacchio, ma io perché ti ho chiamato Fratacchione? Spiegacelo. Perché ieri è un altro momento storico di... del nostro di... dittatore in pectore Vincenzo De Luca, posso dirlo così? Non dire in pectore, si potrebbe... No, no, in realtà ci sta, visto che comunque lui spesso utilizza questi termini, questi latinismi, quindi... Latinismi, certo, certo. Un po' come sono stati dieci minuti sono serviti, cioè basta avanza per il prossimo mese praticamente, perché in 10 minuti ha blastato, cioè ha blastato Fazio, che... devi vedere tu che ancora non l'hai visto, Walter, ma proprio poi ho avuto subito anche la mia, l'ho rivisto un paio di volte, ho fatto subito anche la mia analisi alla Lie to Me. ora Carmine mi sfotterà su sto fatto, ma non fa niente. Quante perché proprio scrollate di spalla asimmetriche hai visto? Sapevo, aspettava il barco. Perché praticamente la risposta l'ha detto, cioè mi sembra molto, cioè questo termine, i congiunti, mi sembra molto molto romantico, molto molto leopardiano. Ha risposto Fazio, ma in realtà cioè non mi ricordo che cosa ha risposto Fazio. Lui ha detto sì, ma tu che hai tanto l'aspetto di un fratacchione, tu ne avrai di congiunti in giro per l'Italia. Ma hai visto proprio Fazio che, scusate, non lo sapevo. Ne avrai di gente, non ricordo le parole esatte, ne avrai di gente che vorrei vedere spazio in giro per l'Italia. E vedi proprio Fazio in quel momento, proprio che già all'inizio avevi introdotto sfottendo, ha detto che comunque, visto che aveva ricevuto anche degli apprezzamenti da Naomi Campbell, e molto, molto pacatamente ha fatto De Luca, dai, ne iniziamo a sfottere, dai, però sorridendo, perché tra l'altro mi pare di aver capito che la battuta sulla Campbell è caduta nel vuoto diverse volte, e Fazio l'ha reiterata perché sì. Ma l'ha reiterata in continuazione, ma in continuazione anche dopo che lui se n'è andato. Io stavo dicendo, ma qualcuno pagasse per qualcuno per ridere, perché sennò chi sta continuando a fine serata dice ancora sta battuta in merda, sinceramente. Ma aspettavo che chiamasse la Campbell per dire oh e basta, cioè, no, ma dico, appena gli ha dato del fratacchione, vedi proprio lui che proprio si è stizzito, proprio ha trattenuto proprio, se l'è presa proprio, e vede che proprio era proprio andato in adrenalina, proprio in stato di attacco fuga, proprio trattenuto, lo vedevi che proprio cercava sempre di cercare il modo di punzecchiarlo. Ma come fai a punzecchiare De Luca? Impossibile, praticamente. A questo impossibile. Punto chiariamo poi, anche una cosa, Robby, scusa, poi visto che c'è pure una certa caratura, cioè nel senso, cosa che Fazio non c'ha, che Fazio si è appecoronato a ben meno probabili personaggi, sì, sì, tipo Berlusconi. Ma o cose, ragazzi, del c'è da dire che secondo me oggi per sostenere, non c'è l'avversario che possa sostenere De Luca in un singolar tenzone di questo tipo. Però volevo chiedere al Lobby, per come dire, lui in questo diventa il nostro consulente geografico IGP, perché ovviamente Fratacchio, spieghiamolo per chi magari non lo sa. Allora, letteralmente significa un frate grassoccio, però in realtà si indica più una persona che è un pochino... cioè, a volte può essere indicata sia una persona abbastanza morigerata, come in questo caso, diciamo, comunque ha detto, visto che c'è un aspetto tipo di un fraticello, di una persona morigerata, comunque ha detto, comunque pure se c'è questo aspetto qua, comunque ne hai di congiunti in giro, di gente più, però a volte può essere anche usato in senso ironico, uè, sì, proprio un fratacchione, per dire che in realtà è ironicamente una persona che ha mani in pasta dovunque, quindi sia nel senso quasi più vicino al letterale, cioè una persona sta un po' via i cazzi suoi, morigerà. Guarda, a Roma diciamo le acque chete. Le acque chete? Sì, in senso vero. Acque chete non mi sembra proprio romano, comunque, ha detto fra noi. Sì, vabbè, guarda, dire questa è un'acqua cheta non l'ho sentita molto. Sì, sì, molto, sì, no, altro, no, insomma, il senso però è quello, però non credo, no, sia è abbastanza romano. Diverso. No, abbastanza diverso. Se ripeti, ironicamente dice sì, proprio un fratacchione, cioè in modo ironico per dire in realtà che uno che ha conoscenze dovunque, c'ha amici dovunque, c'ha. E che magari è un pochino superficialotto anche da sto punto di vista. A Bari diciamo friggitore di polpi. bella. A proposito di Bari, ti volevo dire. Beri. No, scusate, posso fare solo una micro osservazione su ieri? Ah, osa parlare di moglie, devi star zitto. Hai ragione. No, vi volevo dire che è morto un disegnatore Marvel di Bari, Varese, di 59 anni. Allora era della Marvel. Marvel. Di Bari vecchia. E vabbè, era amico allora l'hanno ammazzato come era amico di un mio amico, infatti ho visto che aveva messo sta cosa, poi ho pensato dell'amico. Io la prima volta che sono entrato a Bari vecchia mi hanno rubato l'improponibile. Ha rubato? Sono c'era che Bari vecchia, sta macchina della polizia, ma avevo 17 anni, quindi considera insomma un po' di tempo fa. E c'era la macchina della polizia di fuori al vicoletto, insomma, che si entrava lì, che c'era subito la piazzetta con la chiesa, bello, tutto bellissimo là dentro. Ma dicevo, ragazzi, però se entrate, insomma, state attenti al vostro rischio e pericolo. Cioè, scusa, che cazzo stai a fa qua? Cioè, vabbè, la frontiera è arrivata sta folata dei ragazzini che a noi, che eravamo il gruppetto da scuola, capirai, cioè, chi ha portato via il cappello, chi lo zaino, chi tutto, è tipo stato tutti insieme, cioè siete stati spogliati, lo sciame, sì esatto. No, in realtà adesso Bari Vecchia è un'attrazione turistica, sì, molto visitabile, sì. Comunque, ma anche parentesi, perché voglio dire, era uno spreco il fatto che sì, fosse proprio bella, no. Matteo De Cosmo si chiamava, ecco, Matteo, non mi ricordavo. Confermo, frequentava tra l'altro la fumetteria dove vado tuttora quando potrò. Art director della Marvel. Quindi l'hai ammazzato tu, la verità. No, è proprio disegnatore, non è più un character design, insomma, una persona in grado. Ma di cosa è? Indovina. Di COVID. Aia. Sì. Comunque, ragazzi, micro parentesi, così poi Simone si incazza se interrompo Michele, fa bene. Lo scontro di Luca Fazio, cioè, o meglio, la reazione di Fazio, mi ha ricordato una cosa, magari ve lo linko nei commenti della chat. Tanti anni fa ci fu una specie di confronto televisivo tra Nanni Moretti e Mario Monicelli. Durante questa discussione, Moretti provò più volte a far incazzare Monicelli. Tanto gli fece una battuta, sì, dicendo: vabbè, lo dici tu che hai fatto Alberto Sordi, giustiziere della notte, riferendosi al film Un borghese piccolo picco. Monicelli non se lo cacò nella maniera più assoluta. A un certo punto disse una frase che gli fece tappare la vena a Moretti in una maniera fantastica. Gli disse semplicemente: Nanni, io mi rendo conto che tu hai fatto un film grazioso. Ah, grazioso, potete vedere gli occhi di Moretti che si iniettano di sangue, cioè lo smontò con un aggettivo, cioè lo fece fare per le mani, lui ha fatto un film grazioso e lo fece esplodere. Allora io vi sto mandando quell'intervista. Comunque, in questo momento vi sto mandando il riassunto di Videografie Segnanti del primo giorno di fase 2, spero che coglierete il riferimento musicale. Ve l'ho mandato qua sul link. Mentre Roberto Tomaiuolo praticamente riassume tutto quello che ci avete messo 20 minuti a dire. Dice: sì, fratacchione, persona di sesso maschile con faccia da babbeo che vuole fare il falso simpatico nei confronti di una persona molto più furba di lui. Ah, comunque, poi non è, mi sono dimenticato, non ha detto solo questo. Verso la fine ha detto, De Luca ha detto: basta anche con sta gente, basta ancora a reiterare sto fatto che i meridionali sono inferiori, eccetera, eccetera. Forse inferiori, non lo so, dipende da cosa si misura. Top, è concluso così il suo intervento. Ovviamente si riferiva a quello che è successo a Fuori dal Coro, sì, con Feltri. Ragazzi, lo sapete che questa mattina, poco dopo la live che abbiamo fatto con Alex su YouTube per presentare un po' la demo della sua applicazione in alfa, a un certo punto io ho acceso il televisore per andare su Netflix, però prima di andare a accendere il televisore la prima cosa mi andava preso su un canale della Rai o su canale G, insomma, c'era una trasmissione che non so, veramente non ho guardato né che canale è né che trasmissione era. La conduttrice si chiamava Barbara, ma non era Barbara D'Urso. E c'era tutta questa gente che parlava, che poi io mi domando: ma queste cose sono registrate o stanno veramente tutti dentro questi studi in diretta? Perché cioè, no, sì, se c'era un pubblico sono registrate prima del Covid, ma dovrebbe apparire anche scritto, a meno che non sono repliche palesi. Sì. E c'era sto ragazzo che praticamente stava a insultare le persone diciamo gli obesi, insomma, quelli molto sovrappeso, che dice che per lui non c'era senso di esistere, no? Cioè, nel senso. E c'era un signore che era tipo il padre, che gli dava man forte, e che tutti quelli che dicono il contrario sono degli ipocriti. E tutta la discussione era basata su sta cosa. A un certo punto fanno intervenire una vecchia che dice: però. Barbe, tu pensi un po' che se tu ci dovessi avere due figli, no? Uno obeso, tu chi sceglieresti? Oh mamma. Avrei veramente voluto prendere a ginocchiate la televisione, porco. Mortacci vostri, porco qua. Serve per vedere Netflix ancora. Sì, ma infatti, ragazzi, posso dare un consiglio? Staccate il sintonizzatore dell'antenna. No, io devo dire propaganda, perché lo streaming di propaganda lascia stare. Hanno detto basta. Periodo funziona mai. Lo streaming di La Sette in generale che non gliela fa, magari propaganda è un po' più richiesto e lo fa esplodere, ma io solo per guardare propaganda e non si tocca, poi il resto si butta. La Palombelli, moglie di Rubelli, può essere. Allora era Forum, vabbè, lì è tutto su tutte le pagine. Sì, era qualcosa tipo Forum, sì. Tra l'altro, c'era sto ragazzetto, c'era avuto 20 anni con le sopracciglia tutte disegnate. No? Comunque, sono tutte copionate quelle cose. Comunque, ma quello che te pare. Cioè, è chiaro questo, che come la trasmissione dei tradimenti dove c'era gente che mortacci vostri, il problema è che questa è gente che vota. Mo noi la prendiamo con Conte, che ci avete tutti ragione, per carità, non ci abbiamo i soldi per andare avanti, eccetera eccetera. Invece deve essere una sospensione sui diritti umani per questa gente qua, cioè, l'ha visto pure Gianluca. Comunque, visto che avete citato Forum, io ho fatto una scoperta che mi ha fatto venire veramente i brividi. Cioè, io sapevo che Fabrizio Bracconeri, ex ragazzo della terza C e poi ex usciere di Forum, avesse cominciato a dare i numeri. Ma che avesse tipo, madonna, ma che ci avesse pure un canale YouTube con seguaci, dove va in giro a gridare: io non ho paura del virus, ho paura della gente che ha paura del virus. Cos'è? Cioè, io ho capito, spiego, che ha avuto anche una storia familiare complicata. Esatto, no? lui si è rovinato da solo perché, diciamo, nel tentativo, vedi quello roscio con sì. Nel tentativo, abitava al quartiere mio, adesso sì, adesso sta credo rintanato in Sicilia dalla moglie, perché il problema suo è che, vabbè, al di là del fatto di essere un tantinello fascista e averlo nascosto male, ma proprio un attimo, aver scritto negli anni delle cose sui social per cui è stato bannato mille volte, e poi anche, diciamo, lui era il protetto della Dalla Chiesa, è stato cacciato da Forum nel momento in cui la Dalla Chiesa è stata a sua volta, diciamo, lei è andata in Rai, insomma, quindi diciamo il posto di Bracconeri non era più garantito dalla presenza della Chiesa. Lui si è trovato senza lavoro. Il problema è che lui ha una storia familiare complicata, perché credo che abbia un figlio con qualche malattia rara, abbastanza, una, insomma, disabilità neurologica, esatto, quindi sostanzialmente si è trovato dalla sera alla mattina senza soldi, senza opportunità di, come dire, di rifarsi una presenza televisiva, perché si è autodistrutto con le cose che ha detto, e quindi, insomma, ha provato anche, tra l'altro, a reinventarsi televisivamente. Credo che, non so se poi questa cosa è durata, ma ha fatto uno show televisivo su un circuito di reti televisive sicule, proprio perché lui appunto si è trasferito lì, credo che la moglie sia di Agrigento, Trapani, non ricordo, quindi, insomma, vabbè, tutta lì veramente una storia abbastanza particolare. Vabbè, però a proposito di interviste, comunque Puccio ha messo in chat il link della discussione Moretti con voi dovevate vedere il link che vi ho messo io di videografie segnanti, ma avete totalmente ignorato. Ma cioè, è un capolavoro assoluto. Da, Simo, però dai, queste parole mi rubi sempre le parole di bocca, dai. hai ragione. Donna, sì, vabbè, questo ormai lo bypassiamo, no, lo sappiamo. Comunque mi è venuto in mente l'altro giorno, lo stavo dicendo oggi a mia moglie, qualcuno di noi in trasmissione aveva detto che su RaiPlay c'era il film bla bla bla bla bla bla bla bla, ma non il sindaco del Rione Sanità. Ok, no, me lo scrigno, perché sennò me lo scordo, non c'è cazzo da fare. Dovrebbe essere anche Jovanotti su RaiPlay. Sì, c'è, cioè, comunque speciale, dovrebbe essere bello, in bicicletta. Ho scoperto che c'è anche, lo chiamavano Gigrobò, sindaco del Rio. Io questa cosa non la voglio dire perché la gente mi mena, ma a me quel film non mi è mai piaciuto. Quale? Cioè, tolto, lo chiamavano Gigrobò. No, allora, quale, guarda, no, ancora devo, lo chiamavano Gigrobò. Lo zingaro è meraviglioso. Vabbè, personaggio, ok. Allora, ragazzi, lo zingaro. No, ragazzi, cazzo, no, scusa. Calmi, c'è molta umanità in quel film. Io posso pure capire che fuori da Roma non l'abbiano accolto come l'abbiamo accolto noi. Allora, Gomorra non possiamo vedere perché sono tutti napoletani. Romani e non conosciamo Non dico, non ne sto facendo una questione dialettica, ne sto facendo una questione stereotipale, nel senso che ci sono dei meccanismi. Non vuol dire che fuori di palle da Camorra. Non vuol dire, no, aspetta, io non sto dicendo che poi fuori da Roma non lo debbano guardare, però ci può stare che qualcuno non lo trovi entusiasmante come lo troviamo noi a Roma. Sto dicendo semplicemente questo. Non è che non sto sminuendo il film, che a me piace. Le televisioni, Rizzard, ti prego, non aizzare mio marito, perché io non la voglio ricomprare la televisione in questo momento. Tanto la devi ricomprare per forza, perché sì, però fino a che regge tutta la matrice centrale fa 4K. Infatti non vi boccate, non te tocchiamo Gigrobò assolutamente. A parte comunque il discorso, scusa, vai, l'attrice è bellissima. Vabbè, cioè, ma l'attrice lì è una parola grossa. Sì, vabbè, non è che è meravigliosa a fare quella però cosa, però meravigliosa a fare quel ruolo lì, basta, è perfetta. Cioè, ma pure Marinelli è fantastico. A me non mi è piaciuta Santa Maria, come non mi è piaciuta perché tu ti aspettavi come Giuseppe Sacco. No, non mi aspettavo la cosa sul fumo, cioè il supereroe, cioè in realtà, ragazzi, è una poesia quel film, non si discute proprio. Sì, ha detto Richard, dice che lo devi rivedere anni volte fino a quando non lo capisci. Quando te legamo su una sedia, questo è un po', mi ricorda quando siamo usciti Michela, io e altre persone dalla visione di Interstellar al cinema, e qualcuno si è cominciato a mettere le questioni sulla fisica quantistica. Io ho detto, uno, che cazzo ne sai della fisica quantistica? Due, non è quello l'oggetto del film, cioè nel senso, è chiaro che cioè quella è tutta la. Il regista è sempre Mattia Garrone. Ma Garrone. Sì, Interstellar sì, l'ha fatto Garrone. No, Garrone ha fatto anche Gomorra, vorrei ricordarvi. No, quello l'ha fatto Nolan. Scusa, ma è lo stesso regista di... No, ragazzi, fermi. No, un attimo, lo chiamo Gigrobò di Gabriele Mainetti. Non so che sia. Sì, è vero, altra generazione proprio, cioè. Altra roba, appunto, quindi Puccio, stasera devi guardare Gigrobò. Mi sono andato a vedere tu, Luca, su YouTube. Bravo Roberto, hai fatto bene. Adesso vatti a vedere pure. No, Roberto, vatti a vedere Monicelli contro Moretti. Perché, che però, ritornando un po' a quello che dicevate prima, anche quello che diceva Walter, in realtà a me Di Luca oggi, anche se in maniera più pittoresca e forse anche più ammaliante, mi ricorda il D'Alema dei vecchi tempi, cioè quello proprio, quello che non passavi, cioè lasciamo perdere poi quello l'ironia che c'ha De Luca. D'Alema non ce l'ha mai avuto. No, D'Alema non era ironico, era magari carismatico a modo suo, ma non ironico, cioè qualche stilettata magari la mandava anche, però non erano voi se seguivate i dibattiti, cioè con D'Alema ragazzi non si passava, cioè proprio non c'era. Infatti secondo me l'errore nell'epoca Occhetto è stata che c'era Occhetto a fronteggiare Berlusconi e Fini e via dicendo, perché secondo me se ci fosse stato un D'Alema quando era proprio agli splendori, era veramente difficile proprio contestare. Poi a parte che a volte, ma scusa, non è stato il governo D'Alema che ha tolto le castagne dal fuoco al Berlusconi per primo? Mi ricordo male? Probabile, ma non è che, infatti non è una questione di merito su D'Alema, è proprio un D'Alema 25 anni fa era un politico formidabile, secondo me, dal punto di vista proprio della gestione del dibattito, era uno che non passavi. E De Luca, con maggiore ironia, con un po' più di atteggiamenti un po' più pittoreschi, e questa modo un po' gasmaniano che c'ha di parlare, secondo me me lo ricorda molto, insomma. Guarda, io ti dico questo, secondo me De Luca arriva al popolino, mentre invece D'Alema era il problema di essere il classico radical chic della sinistra di quegli anni, che lo capivano sì, tre sì, sì, sì. Sostanzialmente quella è la grossa differenza. Io ripeto sempre questo fatto: se vince comunque il background, per quanto breve, di insegnante di De Luca, perché comunque un laureato in filosofia che in qualche modo deve trasmettere delle conoscenze anche complesse, una certa dedizione, diciamo, a questo ruolo ce l'ha dovuto avere, quindi in qualche modo l'ha mutuato anche da questo, perché comunque difficilmente c'è una persona che piace, per quanto discutibile, piace un pochino in modo trasversale a tutti, non è accessibile a tutti, in confronto a, come hai detto, D'Alema, che è abbastanza radical chic, abbastanza classista tra virgolette, come sì, ma come, perché comunque De Luca c'ha un approccio più teatrale, perché voglio dire, poi a volte quando si addentra, in realtà anche lui dal punto di vista terminologico non è così accessibile come tutti, però il problema è che c'ha un modo di comunicare che è più proprio più teatrale, che è invece proprio il modo più diretto anche di comunicare. Secondo me funziona tantissimo. Però ribadisco, dal punto di vista della difficoltà di approcciare il dibattito da parte di un avversario, mi ricorda appunto D'Alema, perché comunque D'Alema 25-30 anni fa era tosto, insomma, veramente tosto, insomma, era difficile proprio passare, ma ci aveva una capacità, e quella era roba di scuola, non era roba solo di intuito, c'era una capacità di inserirsi all'interno delle pause quando, che ne so, l'avversario strillava, cioè nel senso e lui riusciva a inserirsi, ma proprio tecnicamente era un mostro, cioè era proprio era un animale da partito, da dibattito, vabbè. Ma a proposito di animali in intervista, ragazzi, l'avete visto Mike Pompeo, che è il segretario di Stato americano, in intervista alla ABC con la giornalista che gli chiede delle cose e lui da par suo risponde? Sì, risponde in due modi diversi alla stessa domanda. Guarda, c'è un video riassunto in 40 secondi. La giornalista gli domanda: lei crede che il coronavirus sia stato creato dall'uomo o modificato geneticamente? E lui risponde seraficamente, dice: i migliori esperti finora sembrano pensare che sia stato creato dall'uomo. A questo punto non ho motivo di non crederci. Allora, ovviamente, la giornalista replica. Lui aggiunge: l'intelligence afferma che che per la comunità scientifica il Covid non era stato creato dall'uomo o geneticamente. Scusate, mi sono intrippato. La giornalista replica: mortificato. Esatto, mi sono mortificato, che era la vecchia stagione. La giornalista replica e dice a Pompeo: attenzione, perché la vostra intelligence afferma che per la comunità scientifica il Covid non è stato né creato dall'uomo né geneticamente modificato. Quindi sostanzialmente gli ha fatto notare che per l'intelligence l'origine del virus è naturale. E lui ovviamente cosa ti va a rispondere? Si ferma un attimo, ci pensa e risponde seraficamente: giusto, sono d'accordo, ho visto le loro analisi, ho visto il riepilogo che hanno reso pubblico. E quindi lei afferma che... Quindi la giornalista punto gli fa la domanda, dice: scusi, mi faccia capire, cioè, non ho, per essere qui, cioè, scusi, per essere chiari, non pensa che il virus sia stato creato dall'uomo o geneticamente modificato? Stavo parafrasando il titolo. E Pompeo risponde: non ho motivo per affermarlo, non ho motivo per smentire quello che dice la nostra intelligence. Quindi fondamentalmente, come dice, cioè, io sono venuto qua di questa cazzata, però poi se voi mi dite che l'intelligence dice no, vabbè, allora. Ma Pompeo è quello che abbiamo visto che c'ha a casa Santa Casa dei Cori. Ah, allora io gli vado a bruciare a casa. Bravo, ma bisognava bruciare a casa a prescindere, comunque non è che sta gente comunque... Sì, ma senza nessuno dentro è poco divertente. Esatto. Comunque mi piacerebbe una volta, se riesco, e questo lo sto dicendo già da diverso tempo, ma forse ci sono quasi riuscito, a trovare la persona giusta, fare una puntata proprio sui virus, perché in realtà pure su questa cosa, e qui ritorniamo al presidente eletto dal popolo, no? Cioè, nel senso, a quelle cazzate che la gente dice perché sente dire, no? Cioè, il discorso della modifica dei virus è una cosa che si fa costantemente, quotidianamente, in tutti i posti del mondo, in ogni laboratorio del mondo, perché comunque tramite l'elaborazione e la modifica dei virus si creano i vaccini. Per esempio, si fanno determinate cose che possono essere i vaccini, si studiano le reazioni. Ma si creano anche dei ceppi che servono ad indebolire quelli più forti. Praticamente tu crei degli ibridi genetici, fondamentalmente immetti una variante del virus indebolita, che poi può in qualche modo andare a colpire l'intera l'intera popolazione virale, esatto, è la catena. Però volevo un attimino tornare indietro, perché ho letto un messaggino con la coda dell'occhio mentre stavamo in chat, e Peppe Rizzard la buttava lì la battutina sul radical chic, che dice adesso è diventato sinonimo di sinistrato, soprattutto per i fasci che sono usciti freschi freschi dai tombini. Mi piace, vabbè, però è un po' che è così, cioè, sì. Sai quante volte già, vabbè, sei radical chic, tu la cosa sei da radical chic, no? Cioè, quant'è oramai è? Sono vent'anni, però appunto sono vent'anni quelli che sono, però in realtà è nell'epoca di D'Alema che era nato il concetto, ecco. Poi io non ho capito la frase di Roberto, però invece Dumbo e Rizzard dice anche virologo. Beh, che scherzi, io ho studiato a Oxford, dice Roberto Tomeo. Cerchiamo di leggerla. Beh, finché non facciamo i funerali ballati come i neri del Ghana vale tutto. A proposito di meme, Simone, avrei visto i meme musicali con quelli là che ballano, sì esatto. Ne ha parlato anche Propaganda venerdì scorso, perché effettivamente è diventato uno di quei tormentoni. Ha sostituito nell'immaginario popolare il nero di WhatsApp, che per anni ha imperversato, insomma. Quindi un degno sostituto, direi, perché comunque è lo stesso meme che ho mandato io adesso. Non ti arrabbiamo, Michele, non ti arrabbiamo. Vabbè, ragazzi, per sdrammatizzare. Ma Michele, tanto lo ignoriamo di nuovo. Nel frattempo ci chiede Leo se Barbascura X ce lo possiamo permettere. Guarda, sarebbe figo. Sarebbe figo. Non ho pensato a lui, però gliel'ho mandata la mail. Chissà se. Tra l'altro, ragazzi, lo trovate sul suo canale. Lui fa delle dirette su un canale parallelo, anche via Twitch. Lui ha altri dei canali. Sì, c'è un problema. Cioè, ha affrontato un problema abbastanza serio. L'ha affrontato in modo giusto. Cioè, lui ha avuto una serie di. Vabbè, in gergo si dice doxing. È stato praticamente gente che ha detto il suo vero nome, dove vive, eccetera eccetera, in commenti ai suoi video, perché ha fatto incazzare i terapiattisti, gli antifascisti. Si è pure infilato nel congresso dei terapiattisti, sì. No? Ha fatto quel video, guardatelo perché è meraviglioso, è geniale, sì. E lui ha, insomma, per molto tempo ha soprasseduto, oppure ha risposto in maniera molto spiritosa. Quando sono arrivati a minacciargli i parenti, li ha denunciati, ed è venuto fuori che la sua denuncia ha aperto una cataratta, perché quando si è sparsa la voce, altre persone che hanno subito lo stesso trattamento, visibili quanto se non più di lui, si sono accodate. Quindi per un po' di gente, mala tempora currunt, ma è anche giusto però che sia così. Era ora, posso dire che era ora. Sai che nella vita quando si lascia troppo correre, questo io riparlavo, lo dicevo 30 anni fa con i fascisti, cioè quando uno dice vabbè, ma in realtà poi alla fine no, e poi sono ragazzi. So, ragazzi. No, in realtà vabbè. Guarda, io l'unica cosa che non capisco di Barbascura, e che apprezzo tantissimo, è il fatto che lui, essendo comunque non solo un ricercatore rinomato, ma essendo anche un divulgatore a livello internazionale, non puoi pretendere di fare un canale YouTube, mostrare la tua faccia, mostrare chi sei e quello che fai, e che comunque tu possa rimanere anonimo per ragioni personali. No, ma tra l'altro, cioè, anche spiegato, era una contraddizione, cioè, era una follia. C'erano centinaia di persone che sanno chi è, nome, cognome, cioè non, sì, però non è mai lui stato comunque un problema. Però usarlo per dire lui, sì, perché lui ha dichiarato che lui non avrebbe mai detto. No, cioè, lui non voleva dirlo lui, però che molta gente ci fosse arrivata, vabbè, era facile, anche perché c'è i profili privati. Sì, dai, comunque se li cerchi li trovi. Cioè, non è molto. No, ma appunto, ma anche solo per coincidenza, visto il numero di utenza che lui c'ha, no? Cioè, nel senso, comunque vai a un convegno sulla chimica, roba del genere, e te lo trovi, cioè, nel senso. Beh, anche perché ormai finisci per essere un personaggio pubblico, cioè poco a tutti gli effetti, come era un televisivo qualche tempo fa, insomma. Sì, esatto. Anche perché lui fa spettacoli teatrali come Barbascura X. Cioè, voglio dire, comunque vuoi o non vuoi, cioè, nel senso, lo fa di professione. Molto bello, tra l'altro. Cioè, c'è il libro che ha pubblicato adesso, che è molto molto bello. Il genio non esiste, spesso è un idiota. Cioè, se non uscite di casa, compratevelo digitale se non avete una libreria vicino. Però leggetelo, perché è veramente divertente. Io sto alla parte su Darwin e mi devo trattenere la notte per non scoppiare a ridere senza svegliare mia moglie. Ho scoperto che Darwin amava gli animali perché li mangiava principalmente. Quindi scendeva dalla nave già col bavaglino, la forchetta, il coltello. Meno male che non c'è il girasole, che poi ci rimaneva male. No, meno male, sì. Ragazzi, comunque, invece, vai, scusa, non ti voglio interrompere. Vedo che Rizzard sta scrivendo delle cose, ma io c'ho la... Allora Pizzi, le rammento che al momento GM non copre tutta la penisola, soprattutto il profondo sud, prima di Barbascura, prima i terroni africani. Vabbè, Pizzi, di Taranto, e vabbè, Barbascura, e Tarantino. No, però non ho capito, però. Leo, no, beh, io penso più africano di... Barbascura X ce lo possiamo permettere? E il Rizzar risponde: Leo, sono un po' combattuto su Barbascura, devo approfondire. E poi Rizzar risponde sempre all'ultima, nell'ultima frase, Pizzi, vabbè, poi alla fine sono ragazzi che finiscono in Parlamento. Eh sì, esatto. Porco due, giusto, bravo. È quello che dicevamo anni fa, questo purtroppo. Però forse è meglio Barbascura in Parlamento che Marcello Ascani, cioè tra uno e l'altro, forse. Vabbè, ma. Cognizione dei gatti. Facciamo una cosa, tagliamo salomonicamente Barillari. Ci mettiamo Barillari e via. Barillà. Barillà. No, vabbè. Ragazzi, no, volevo fare quattro risate leggendo questa notiziola. Questa è una di quelle che Gualdi sarebbe lieto di leggere, ma è al lavoro e quindi non può. Poraccio. È sostanzialmente questa notizia di questo ragazzo che viene fermato con, diciamo, da un posto di blocco mentre si muoveva per le vie di un paesino che si chiama Storo, in provincia di Trento. I carabinieri, per la verifica, insomma, della sua certificazione, questo è successo credo un paio di giorni fa, sabato scorso, quindi prima della fase 2, vedevano questo ragazzo un po' nervoso, un po' agitato, già ai primi accenni di controllo, al che gli, insomma, sai, i carabinieri a un certo punto si fanno venire il dubbio e gli chiedono di aprire il bagagliaio. Lui, un po' interdetto, lo apre. Cosa hanno trovato dentro questo bagagliaio? La fidanzata. Un cinese nudo. Quasi. Tu vuole scopare me? No, hanno trovato la fidanzata un po' anchilosata. Tu vuole regolare me? Ebbene, c'era la ragazza che... Vabbè, comunque sei un coglione. Io dico, a me queste notizie mi fanno ridere. Non tanto perché, oh, vabbè, le cazzate le abbiamo fatte tutti, raga, cioè, e prendesela con le cazzate che fanno l'arte è anche ipocrita. Però a volte dico, cioè, sei un coglione, perché, cioè, te mancano 2 giorni, cioè, fra 2 giorni ci puoi andare a trovare, in teoria, la tua ragazza, in teoria, no? Perché comunque era sabato, la notizia è di sabato. E che magari lunedì, qualcosa, insomma, che avevano già fatto altre volte, fino a quel momento gli aveva detto bene. Era andata bene, sicuro, è probabile. Comunque Leo Vargion chiede anche Neurodrome. Anche lì la vedo difficile, insomma. Allora, io vi dico che ho scritto a entrambi per poi 2 ragioni che diverse. Succede. Vabbè. Perché mercoledì c'è una cosa che ancora non vi diciamo. Ma c'è o potrebbe esserci? No, c'è, però in effetti sono un po' in ritardo, però c'è. Okay. Vabbè, però c'è. C'è un teaser, se cercate un'immagine teaser, se cercate su Facebook. Ben nascosta. Vabbè, grazie, calla, sei arrivato con Facebook. Questa è discriminazione palese. No, perché è apparsa, mi pare, anche nel canale Telegram, se non mi sbaglio, quindi mi dovrebbe apparsa. Essere, adesso lo verifico mentre io devo capire che era già mercoledì. Sì, mercoledì questo. Ah, c'è anche l'evento Facebook dato perché vabbè, voi comunque tenetevi liberi, anzi no, tutti noi teniamoci liberi. Dici a che ora, almeno ci teniamo liberi. Alle 21. Ah, va bene, il serale, perfetto. Serale, sì, oramai si ritorna agli orari. Dopo cena, panza piena, che fa pure ridere. No, il teaser non è apparso sul canale Telegram, mio errore, mio grandissimo errore. Lo farò apparire dopo la fine di questa trasmissione. Vabbè ragazzi, okay. Diciamocelo, dai, che facciamo per cena, che se magna? Hamburger. Ah, sai che pure io? Hamburger cinese, giapponese, ma non c'è niente. Quindi. Hamburger cinese. Un hamburger cinese eviterei, va. Il pangolino. Ma va col pangolino. Povero pangolino. Ci sono le scaglie che tu invece che fai, Spago? Che cosa ti sei scongelato? L'hamburger, sì, anch'io. Semplice. La sottiletta. Sì, ma lo stesso hamburger. La salsa barbecue, sì, faremo a metà perché... Gianlucas Eduardo Moreiro ci dice pizza. E io la pizza mangerei pure tutti i giorni, ma ho già dato questo fine settimana. Noi ieri, pizza e cibolla. Con la cibolla, quella là del Bofrost, ragazzi, che spacca veramente. Rimane la pizza più buona del mondo, secondo me. Dopo quella vera, insomma, chiaramente. È quasi uguale a quella vera. Ma non ci vuole impastare stasera dopo 4 mesi che ne impasta la pizza. Mi sa. Metto al lavoro le donne anche. È impastata la pizza. L'arrotino. Ma cioè, io penso sempre, no? Ma sai se il lobby non avesse preso quel pullman? Cioè, io pensavo avrei visto 2 mesi di vacanza. Ma anche io lo sai. Ma, no, ma la cosa bella è che lei non è che dice mi sarebbe piaciuto, così saremmo stati in compagnia. No, no, ti metteva a fare la pizza, capito? No, no, guarda, cioè, Labby lo sa, non c'è bisogno che io lo spiego. Praticamente Labby lo sa. È come un fratello. Lo sa che Luca è un fratello mongoloide. Un fratello che fa il pizzaiolo. Sai quelle fratello mongoloide è bellissimo. Ha detto lui, quelle persone che tu dici, ah, c'è dentro casa, ok, è casa tua, tranquillo, fai quello che vuoi. No, Michele, secondo me come la metti la stai a mettere male. Ah, c'è pure lui dentro casa, ah, vabbè, allora maledetto lava pullman per terra. Sì, Gianluca c'ha ragione, maledetto pullman. Maledetto, ma prima pullman. La torta. Latte e biscotti. Nel frattempo Rizzard diceva latte e biscotti, infatti mi sono fermato su è la mia pensiero. Cena preferita. Sì, ma non sempre. No, sempre. Però è la mia cena must. Ragazzi, io lo faccio di rado, perché anche se mi sfondo di latte e biscotti, tu mi dai un pacco intero di frullini e un litro di latte e me lo mangio tutto. Poi dopo un po' il fatto di non aver mangiato niente di salato mi fa tornare un senso di insoddisfazione, non di fame, perché fame non ce la puoi avere. Però il salato vince sempre. Sì. Però latte e biscotti qualche volta la sera. Sì, ogni tanto lo faccio pure. Dovete considerare che noi c'abbiamo pure il Nesquik, quindi insomma. Azzarola. Guarda, io ho prendo veloce. Oddio mio, scusate. Nintendo no, lo so, non la ripetere, ti prego. Esatto, lo dirò mai più. Esatto. Vado a mangiare il tiramisù che sta preparando mia moglie. Aspetta, ma mi fai capire una cosa? Ma tua moglie è una pasticceria? Diccelo, confessa. Ma lei è una cuoca. Sbano, se tu ascoltassi mai uno dei miei cosi, dei miei programmi, ti saresti accorto che è una cuoca che c'ha un blog di cucina. Ma che cazzo è che è? Super brava, bravissima. Ma io non so mettere in dubbio che Michela da un po' di mesi a sta parte c'hai le cose di persecuzione. Da no, non mi ascoltano, non mi fanno. No, perché poi io lo dobbiamo ripetere. È una super cuoca, tra l'altro c'ha pure un blog. La super cazzola. Quasi, cioè, alla stregua di Benedetta, quindi insomma. Benedetta chi? Vabbè, esageriamo, cioè no. Abbiamo un paio di milioni annui di visite, ma... Vabbè, ragazzi, io chioserei con Rizzard che mi dice di mettere il sale nel latte. Basta non metterlo sulla mozzarella e il sale. Grande, ecco. grande. Vabbè, ma poi lo spot non l'abbiamo messo. No, lo mettiamo in chiusura, assolutamente. Ah, okay. Anzi, io direi che se vogliamo cominciare a salutarci, perché non so voi, però veramente io comincio ad avere un languorino. Si quindi dai. Sì, è vero. Bene, ragazzi, baci a tutti da parte mia, Simone, da parte di Michela. Ciao a tutti. Salutiamo anche chi ci ha fatto compagnia in chat, Rizzard, Gianluca, ma ormai cioè in questa sua incarnazione Juan Lucas, Edoardo Moeiro, Leo Vargion, Roberto Tomaiolo, con noi poi c'erano almeno all'inizio anche Alex Raccuglia e poi c'era Matteo Rigotto, che voglio salutare Roberto perché ci arrivo perché ci è rivenuto a trovare dopo tanto tempo, e poi per ultimo ma non ultimo Roberto Marin. E vi dico, non chiudete la diretta dopo questi saluti, perché vi dobbiamo far ascoltare una cosa importante. Saluto anche Lobby Frontali. Salve a tutti, addio a tutti. Non so più salutare, ragazzi. Volevo solo dire che è stato avvistato della gente con degli esoscheletri per portare i pacchi in Cina, stile Death Stranding, fino a 50 kg. Chiuso con questo. Ciao. E salutiamo anche Carmine Puccio Console. Vado a vedere immediatamente le foto dei cinesi cyborg che portano i pacchi. Anch'io ne voglio vedere, mettete i link. Però devo dire, c'è già sul gruppo di lavoro. Sì, però devo dire che la Cina che conosco io gli avrebbero fatto portare i pacchi e basta, senza esoscheletro. Però vabbè, stanno cambiando i tempi. È la nuova Cina. No, ma vero, guarda. Va bene, ragazzi, allora pacchi di cibo. Vi saluto, fino a 50 kg, poi quello che c'è dentro, sempre 50 kg. So. Madonna. Cibo potrebbero essere pure tartarughe, allora. E allora, ragazzi, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata di OGM Live, che sarà quando sarà. Voi restate sintonizzati, ma sicuramente ce ne sarà qualcuna nei prossimi giorni. E vi lascio con questo piccolo contributo ad ascoltare tutto di botto. Un altro architetto, designer, art creator, lifestylist che parla di architettura.